Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Uno speciale del cacciatore di libri da Mantova per il Festival Letteratura, che è iniziato mercoledì e si conclude domani sera, domenica. Uno degli appuntamenti culturali più gettonati dell'anno in Italia. A Mantova si viene per incontrare gli scrittori e per partecipare ai dibattiti. Tantissime le iniziative per le quali quasi sempre si paga un biglietto, dunque il pubblico è realmente interessato a quello che va a vedere. Ogni anno il Festival Letteratura, lo ripetiamo spesso, rinnova una sorta di miracolo. C'è una folla di gente che proprio ha fame, ha sete di libri e di cultura, e in un paese dove paradossalmente solo 4 persone su 10 leggono. Ma allora qual è il segreto del Festival di Mantova? L'abbiamo chiesto ad una delle organizzatrici, Marzia Corraini. Sono 14 anni che ce lo chiediamo anche noi, ma evidentemente c'è un mix che continua a funzionare. Probabilmente è anche la semplicità con cui affrontiamo le cose. Noi che organizziamo siamo molto vicini al tipo di pubblico che c'è a Mantova, secondo me, quindi in qualche maniera c'è un'affinità che poi si riversa nel piacere e nella passione per conoscere cose nuove, oppure per approfondire cose di cui si è già parlato o si è già studiato. Ovviamente c'è sempre una parte di questo miracolo che sfugge anche a noi. Il nostro pubblico riesce a meravigliarci. È un pubblico anche molto interessato. Personalmente ho visto gente in piedi assistere 1 ora e 50 a un incontro sulla Costituzione. Insomma, è un pubblico veramente determinato. Assolutamente sì. Come le dicevo, ci sono incontri molto specifici che hanno anche, come dire, tipo quello di un grafico con con termini particolari. Pieno il Bibiena è pieno fino alla fine, con domande assolutamente pertinenti. Ma per quanto riguarda invece gli incontri sulla Costituzione e altri che riguardano diciamo il momento contemporaneo, ci sono alcuni anni che c'è un interesse pazzesco, perché il pubblico vuol capire, e probabilmente vuol capire da solo, sentendo i protagonisti, senza la mediazione di una televisione o forse anche del giornale. Vuole conoscere le persone, e questo tra l'altro è, almeno l'abbiamo sperimentato, non solo con le persone che la pensano come lui, ma anche con situazioni che sono al contrario delle sue idee, ma semplicemente per capire. A noi questa idea della curiosità culturale e della necessità di voler capire, unita alla passione, interessa molto. Per 5 giorni c'è un'intera città in festa che si dedica ai libri. Ci sono 650 volontari, tutti giovanissimi, pronti a dare informazioni e a guidare il pubblico. Uno degli eventi di punta di questa 14ª edizione è stata la retrospettiva dedicata all'israeliano Amos Oz, scrittore amatissimo in Italia. Lo abbiamo incontrato e gli abbiamo innanzitutto chiesto di commentare gli ultimi sviluppi della politica, ossia l'inizio negli Stati Uniti dei nuovi colloqui di pace diretti fra israeliani e palestinesi. Sentiamolo. Sostanzialmente stiamo parlando qui di una tragedia. Due stati che convivono in una terra piccolissima, più o meno una terra come la Sicilia. Entrambi i popoli hanno il diritto di vivere in quei territori e non hanno un altro luogo dove possono vivere. Non possono diventare un'unica e felice famiglia, perché non sono un'unità e non sono una famiglia. E pertanto devono dividere questa casa in due piccoli appartamenti. I cechi e gli slovacchi sono riusciti a fare questo nella ex Cecoslovacchia e sono riusciti a farlo in completa armonia. In former Czechoslovakia, in peace and harmony. Ha fiducia dunque nella ripresa di questi colloqui di pace? I am cautiously hopeful. Ho speranza, ma la mia è una speranza cauta. Non so se qualcosa di positivo succederà. Avranno successo in questa fase i colloqui o nella fase successiva, ma qualcosa succederà. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu sembra essere passato, insomma, da falco a colomba. Secondo lei è credibile questo cambiamento? Per ora è un cambiamento nella sua retorica. Io voglio vedere il cambiamento nella sua azione. Lei è un sostenitore del dialogo, dialogo con tutti, anche con l'Iran? Sicuramente, se l'Iran è disponibile a dialogare con Israele, io sarò disponibile a dialogare con l'Iran. Lei in un'intervista ha detto: se dovessi dire in una parola di cosa scrivo, direi le famiglie. Se dovessi dirlo in due parole, le famiglie infelici. Perché sceglie sempre le famiglie come oggetto della sua narrazione? Io penso che la famiglia sia l'istituzione più misteriosa, più paradossale, più comica e più tragica dell'universo. Per milioni di anni abbiamo sentito questa profezia della famiglia che è destinata a scomparire, ma non sta scomparendo. Ed è per questo motivo che penso che la famiglia sia l'argomento più esaltante di cui parlare. Che tipo di sentimenti le piace più indagare proprio nelle dinamiche familiari? Tutti i sentimenti. A me piace creare come un'immagine unitaria l'armonia, la disarmonia, la rabbia, l'amore, la gelosia. E questo era lo scrittore israeliano Amos Oz, uno dei protagonisti del Festival Letteratura di Mantova. Festival che quest'anno ha dedicato anche grande attenzione all'Iran. Iran 2.0, l'iniziativa di alcuni studenti iraniani che hanno organizzato delle postazioni informatiche qui al Festival, dove è possibile leggere e ascoltare informazioni sull'Iran, mettersi sostanzialmente in contatto per esempio con dei blogger iraniani. Grande attenzione naturalmente alla vicenda di Sakineh, lo ricordiamo, la donna condannata alla lapidazione per adulterio. Ora, anche grazie alla pressione internazionale, la pena è stata sospesa. Ma quanto ha contato la pressione internazionale? Lo abbiamo chiesto a Kader Abdullah, che è uno scrittore iraniano che si è rifugiato in Olanda ed è autore del libro Il Messaggero, pubblicato in Italia da Iperborea, che è una sorta di rivisitazione della vita di Maometto. Allora sentiamo Kader Abdullah. It was a gift. It was a cadeau. È stato un grande dono da parte dell'opinione pubblica mondiale per gli iraniani, perché adesso gli ayatollah non osano più eseguire la condanna. Io devo ringraziare tutti i giornalisti, i lettori, tutta la comunità internazionale che ha esercitato questa fortissima pressione sul regime iraniano. È necessario continuare ad operare in questo, perché è grazie a tutti voi che la condanna è stata sospesa. It was necessary and is necessary to continue it. Per quanto invece riguarda l'Onda Verde, le proteste anti-Ahmadinejad, che fine hanno fatto? È successa una cosa molto importante, perché fino a un anno fa avevamo soltanto un fronte comune di Ayatollah. Adesso, grazie a questi movimenti, c'è stata una frattura. Adesso tutti sanno che ci sono dei buoni Ayatollah e dei cattivi Ayatollah. Forse ora la situazione è un po' stagnante, ma evolverà in qualche senso. Il movimento prosegue molto lentamente, sembra quasi stagnare, però sicuramente si sta muovendo e tornerà. E Sakineh e altri casi come quello di Sakineh sono il risultato di questo movimento. Da un autore iraniano come Kader Abdullah ad un italiano, che però ha raccontato la storia di un ragazzino fuggito dall'Afghanistan e che ha trovato asilo in Italia. Forse l'avete riconosciuto, parliamo di Fabio Geda, autore di Nel mare ci sono i coccodrilli, pubblicato da Baldini Castoldi Dalai. E la storia vera di Enayatollah Akbari, che da ragazzino appunto è andato via dall'Afghanistan e dopo un viaggio avventuroso attraverso Iran, Turchia e Grecia, è riuscito a raggiungere l'Italia, dove è stato preso in affidamento da una famiglia a Torino. E allora, tempo fa, avevamo incontrato appunto Geda e gli avevamo chiesto che cosa lo aveva colpito di più di questa storia. Sentiamolo. Da un punto di vista strettamente umano, guarda, c'è una fase di Simone Weil, no? Lei dice spesso che l'attenzione oggi è la più grande forma di altruismo, no? Quindi dal punto di vista umano mi ha colpito il fatto che ero convinto di sapere tanto su queste vicende e invece non ne sapevo così tanto come io pensavo di saperne. E il fatto di immergermi con attenzione e quindi anche con altruismo nella sua memoria mi ha permesso di capire molto più in profondità le dinamiche che sottostanno ai grandi flussi migratori o semplicemente al viaggio di un ragazzino di 10 anni dall'Afghanistan all'Italia. Dopo aver scritto questa storia, ti capita di guardare agli stranieri in modo diverso o avevi già uno sguardo diverso? Io avevo già uno sguardo diverso per il fatto che ho lavorato come educatore per un sacco di anni. In modo particolare io ho cominciato a lavorare come educatore con i minori stranieri a San Salvario, quindi insomma, ok, abbiamo detto tutto. Detto questo, però, io penso che questa storia possa aiutare le persone, non solo questa, tutte queste storie possono aiutare le persone a vedere il mondo con occhi diversi, ma guarda, ma non solamente lo straniero, anche se stessi, perché uno guarda l'altro in modo diverso se riesce a guardare se stesso con occhi diversi. Il cacciatore di libri. Ancora da Mantova, lo speciale sulla 14ª edizione del Festival Letteratura. Grande spazio quest'anno è stato dedicato ai gialli, il genere, lo diciamo sempre, preferito dagli italiani. E naturalmente grande spazio è stato dedicato ai giallisti. Primo fra tutti Frederick Forsyth, autore di spy story come Dossier Odessa o Il giorno dello sciacallo, Il quarto protocollo. Ora in Italia è stato appena pubblicato da Mondadori Il Cobra, un romanzo sui traffici di droga in Colombia e un ex agente della CIA che deve appunto indagare. Ma accanto a Forsyth c'è stato anche un altro autore di thriller, lo scozzese Ian Rankin. È appena uscito per Longanesi il nuovo romanzo Un colpo perfetto, in cui alcuni uomini decidono di rubare opere d'arte alla National Gallery di Edimburgo. Non lo fanno per soldi, ma per rendere di nuovo visibili, insomma, al pubblico, diciamo così, le opere nascoste nei magazzini. Un romanzo senza il personaggio seriale di Rankin, il poliziotto John Rebus, che è andato in pensione. Ma come si sente adesso l'autore senza il suo amato protagonista? Sentiamolo. John Rebus è in pensione, ma lavora ancora per la polizia come civile. Non è morto, è ancora nella mia mente e potrà ritornare in futuro. Comunque, allo stesso tempo, mi è piaciuto esplorare Edimburgo dalla prospettiva di altri personaggi. Per John Rebus, Edimburgo è soltanto la scena di un crimine. È stato bello in questo libro raccontare le storie di altri personaggi che hanno una prospettiva diversa su Edimburgo. Ma sta effettivamente lavorando al ritorno di John Rebus? No, non sto lavorando al suo ritorno. Ho scritto un altro libro dopo Un colpo perfetto che parla di affari interni, poliziotti che indagano su altri poliziotti. Ci sarà un secondo libro con gli stessi personaggi, poi forse Rebus tornerà. Quanto conta Edimburgo nei suoi romanzi? È molto importante. Ho iniziato a scrivere storie su Edimburgo per trovare un senso, per capire Edimburgo, già a metà degli anni Ottanta, quando ero studente. Mentre scrivo, cerco di capire il carattere, la psicologia della città. Ma naturalmente Edimburgo cambia, e così devo scrivere altri libri per capire i cambiamenti che avvengono nella città. Come nascono in genere le trame dei suoi romanzi? In diversi modi. A volte un articolo di giornale, a volte sento qualcosa alla radio o alla TV che mi fa venire un'idea, a volte vado in un pub per bere qualcosa, qualcuno mi riconosce e mi racconta una storia che può diventare la trama di un libro. Le storie possono arrivare da qualsiasi parte. Stories can come from anywhere. E a proposito di gialli, al Festival Letteratura di Mantova è stato dedicato un focus ai gialli scritti da donne. Insomma, la passione per il giallo contagia appunto anche le donne. Allora sentiamo la giallista Diana Lama. Per scrivere un buon giallo, anche se ami leggerli, devi comunque amare indagare l'animo, insomma, la psicologia delle persone. Quindi in questo forse le donne sono molto curiose degli altri, delle altre persone, dei risvolti dell'anima, quindi il giallo è una lettura adatta o anche un genere di scrittura adatto. Ha senso parlare di giallo al femminile o è una riduzione così giornalistica? Per me sì, è un po' una riduzione giornalistica, anche perché secondo me esiste un tipo di scrittura gialla femminile, ma può essere tranquillamente fatta da uomini o viceversa. Per esempio ci sono gialliste donne che scrivono nettamente al maschile molto bene. Ti faccio un esempio, Moaider è la prima che mi viene in mente. Insomma, non credo che si possa etichettare uno scrittore di gialli, di thriller, di noir o di altro per il sesso. Può avere un tipo di scrittura più femminile o maschile, ma non legata al suo sesso di appartenenza, secondo me. Anche perché, non lo dimentichiamo, la più grande giallista di tutti i tempi era una donna, Agatha Christie. Tra le altre cose, anche probabilmente quella che è considerata, non probabilmente, sicuramente la sua erede, che è P.D. James, che è tuttora il più grande giallista vivente, anche lei è femmina, quindi. Però appunto, secondo me, non per forza una donna che scrive gialli li deve scrivere in una maniera femminile. E forse vi sarete accorti che i gialli piacciono anche ai bambini. Tito Farace è un fumettista, autore di Topolino, di Landog, Martin Mister e tanti altri fumetti, ed è autore anche di libri per i più piccoli. L'ultimo si intitola Il cane Piero, avventure di un fantasma, edito da PM. E allora gli abbiamo chiesto se effettivamente anche i piccoli hanno una passione per i gialli. Sentiamo Tito Farace. C'è una passione e c'è anche una tradizione, perché all'interno della produzione dei fumetti italiani pochi poi lo sanno, ma ci sono le storie Disney. Addirittura più del 75% delle storie Disney prodotte e lette nel mondo arrivano dall'Italia, quindi da sceneggiatori e da disegnatori italiani. Io sono uno sceneggiatore di storie Topolino che ha scritto molte storie gialle e anche noir. In particolare mi piace ricordare quelle raccolte poi nel volume delle Einaudi Topolino Noir. Sono storie che sono state dedicate a un pubblico di bambini, ma non solo di quelli. Chiunque scrive per bambini sa che scrivere per bambini significa scrivere anche per bambini, quindi che hai un pubblico di adulti e anche un pubblico di bambini, è una cosa in più che hai, non una cosa in meno, e che puoi applicare anche a una scrittura di giallo, di noir, di storie criminali addirittura. Ma oggettivamente c'è una differenza nello scrivere un giallo per bambini e uno per adulti? Insomma, ci sono delle cose che non si possono dire? Alla fine è chiaro che all'interno di una storia, non so, disneyana, Topolino, un omicidio non ci può stare. Ciò non toglie che può succedere, si può provare il senso della perdita, dello smarrimento. Io ho scritto un ciclo di storie di Topolino che hanno avuto una loro importanza, in cui Topolino si trovava in una città totalmente estranea a lui e cercava un suo vecchio amico che non riusciva a trovare. C'era proprio una sensazione della perdita, poi saltava anche fuori questo amico, però si provava la sensazione della perdita di qualcuno cui vuoi bene, ma anche era una perdita del passato, di una crescita. Ecco, questo non potere mostrare alcune cose, non poterle dire, vuol dire evocarle, e a volte l'evocazione ha più forza del mostrare direttamente. Mostrare direttamente è facile, evocare a volte ti fa tirare fuori carte migliori e anche più forti. E invece nel mio primo romanzo per ragazzi che ho scritto, intitolato Il cane Piero, avventura di un fantasma, lì comincia con un cane che finisce nel tunnel con la luce in fondo, però non ci arriva perché scappa la pipì, torna indietro, c'è una luce anche all'inizio e diventa un fantasma. Torniamo a parlare di Iran dal Festival Letteratura di Mantova. Azar Nafisi, scrittrice iraniana che vive negli Stati Uniti, autrice del bestseller Leggere Lolita a Teheran. Lei è figlia dell'ex sindaco di Teheran e della prima donna a essere stata eletta nel Parlamento iraniano. L'ultimo romanzo pubblicato anche in Italia si intitola Le cose che non ho detto, pubblicato da Adelphi. Racconta la sua vita privata, che si intreccia con gli eventi storici dell'Iran. C'è il rapporto difficile con la madre, piuttosto aspra e fredda, e quello invece più coinvolgente con il padre, che addirittura la rende complice dei suoi tradimenti. Leggendo il libro, soprattutto nella prima parte, si ha la sensazione che il contesto sociopolitico sia quasi secondario, cioè che la famiglia descritta possa vivere in qualunque parte del mondo, ed è la cosa in fondo che ci spiega la stessa Azar Nafisi. Io penso che le famiglie in tutto il mondo siano simili. Si amano, sono gelose, possono avere dei contrasti. Nel mio libro ho voluto mostrare che il contesto politico e culturale può essere differente, ma le vite sono universali. La politica in Iran è diversa da quella in Italia, ma madri e figlie, padri e bambini, loro si relazionano nello stesso modo. Entrambi, e di questo sono molto orgogliosa, erano franchi e coraggiosi sulle loro idee politiche, ed è per questo che le loro carriere sono finite in tragedia. Mio padre è stato per molto tempo una delle persone più importanti di Teheran. È stato uno dei sindaci più amati. Poi però è stato incarcerato. Mia madre è stata in Parlamento per 3 mesi, ma proprio perché non esitava a dire quello che pensava, è stata messa da parte. Quindi da sempre io ho con la politica un rapporto complicato. Sono sospettosa. Ho sempre preferito starne fuori. Nello stesso tempo ho capito quanto possa essere tutto fragile nella vita. Un giorno tuo padre è uno degli uomini più importanti del paese e un momento dopo si ritrova in carcere. Questa fragilità è rimasta parte di me. Si è arrivati alla rivoluzione perché c'erano molte contraddizioni irrisolte. Con lo Shah c'erano delle libertà di tipo sociale e di tipo culturale, ma non c'era libertà politica, e questo ha portato a una ribellione. Però se l'opposizione fosse stata più saggia, avrebbe potuto prevedere che Khomeini a sua volta non avrebbe permesso certe libertà. Ma la rivoluzione ci ha aiutati a riflettere su noi stessi. E ora penso che il popolo iraniano abbia raggiunto la consapevolezza per la quale ha pagato un prezzo così alto. La faccenda del velo è stata trasformata in una questione politica. In realtà si tratta di un fatto personale. Il velo non dovrebbe essere imposto da nessuno stato, autorità o padre o marito. Nessuno può imporre a una persona come vuole rapportarsi a Dio. Mia madre era musulmana, si proclamava musulmana, ma non voleva portare il velo. Bisognerebbe ci fosse una libertà di scelta personale. È un argomento che andrebbe discusso e comunque È sbagliato marginalizzare le donne che portano il velo. Bisogna trovare un canale di comunicazione. Un'autrice pakistana, che è stata definita da Salman Rushdie, quello dei versi satanici per intenderci, come una scrittrice immensa per talento ed energia. Si tratta di Kamila Shamsi. Ha scritto Ombre bruciate, pubblicato in Italia da Ponte alle Grazie con la traduzione di Guido Calza. Protagonista Hiroko, una ragazza che il 9 agosto del 45 si trova a Nagasaki quando viene sganciata la bomba atomica. Perde tutto, compreso l'amore della sua vita. Due anni dopo si trasferisce a Delhi, in India, in cerca della sorella del fidanzato che ha perso, e da qui inizia tutta una nuova vita. Ma ecco come Kamila Shamsi parla del suo libro al microfono di Marco Lignana. It's a book that covers 60 years and 5 countries. So it starts in Nagasaki in 1945, the day the bomb falls. È un libro che copre 60 anni e tocca 5 paesi. Comincia a Nagasaki nel 1945, il giorno dello scoppio della bomba nucleare. Poi nel 1947 a Delhi, poco prima della separazione fra India e Pakistan. Nell'83 si sposta al confine tra Pakistan e Afghanistan e finisce nel 2002 fra New York e l'Afghanistan. Racconta la storia di due famiglie, per dirla in modo semplicistico, una dell'est e una dell'ovest, e racconta come la vita dei componenti di questi nuclei familiari si intreccino in luoghi e periodi storici diversi. È un libro che guarda a quel che accade alle relazioni personali, alle singole vite, quando la storia si scontra con le vite individuali. History collides with individual lives. Evento conclusivo del Festival Letteratura di Mantova di domenica sera è affidato a Gianrico Carofiglio, l'autore di romanzi come Il passato è una terra straniera, Testimone inconsapevole, Le perfezioni provvisorie. Ci parlerà di un suo saggio di prossima uscita da parte di Rizzoli sulle parole. Ecco come è nata l'idea. Gianrico Carofiglio. Il saggio nasce come in una strana gemmazione da un altro mio libro. Nei ragionevoli dubbi, il personaggio di Guerrieri va in una libreria notturna e trova un libretto che si intitola La manomissione delle parole, in cui si parla della necessità di recuperare le parole consumate dagli usi abusivi. Era un libro inventato, anche se molti lettori mi chiesero come potevano trovarlo, perché si erano incuriositi, e dopo qualche anno ho pensato che se in tanti erano curiosi di leggerlo, allora magari potevo scriverlo io. Quindi c'è questo gioco borghesiano un po' della nascita di un libro da un altro libro, e l'idea è proprio quella contenuta già in quel romanzo, cioè quella di prendere alcune parole chiave, parole importanti consumate da usi sbagliati, e cercare di restaurarle per ridare loro la capacità fondamentale che le parole hanno di raccontare la vita e direi di trasformare il mondo. Possiamo fare un esempio? Beh sì, no, le parole sono vergogna, giustizia, ribellione, bellezza e scelta. Su queste parole, che sono, diciamo, il risultato di una scelta arbitraria, naturalmente, si pratica questo gioco dello smontaggio e rimontaggio alla ricerca di significati e per la restituzione di efficacia. Anche per questo speciale sul Festival Letteratura di Mantova è tutto. Un saluto da Alessandra Tedesco.